Sbagliavi tu a non abbandonarti mai, se fai così camminerai lungo la vita e non vivrai. L'amore è grande quando dà, anche se niente aspetterà. Fai come me, fai come me, ho detto mille volte a te e invece no, non è così. Fai bene tu che te ne freghi, almeno tu non soffri mai, lasciando che un altro paghi. Pensare troppo a te, di sopportarti come sei, trovando scusa quel che fai, di non dir mai qualcosa che potrebbe dispiacere a te, e di morir di gelosia non appena te ne vai. E invece no, non è così. Fai bene assolutismo tra di noi, i sogni miei, le mie poesie, che fine han fatto tu lo sai, quando le cose stan così ci si rassegna prima o poi, dovrei tenermi sulle mie e condannare quel che fai, e invece